Prima edizione. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ed eccolo, Riccardo Muti, ma Macbeth, grande Macbeth, ieri sera all'Opera di Roma. Leggiamo dalla prima pagina del Messaggero e così apriamo prima edizione di questo lunedì. Un trionfo, 10 minuti di applausi che hanno polverizzato l'ufficialità della prima. Ovazioni davvero per Muti all'Opera di Roma con il suo Macbeth di Verdi. C'era la grande energia di Riccardo Muti, c'era anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ieri sera, anche lui applauditissimo. Per lui anche quest'anno Muti ha fatto suonare l'inno di Mameli, ricorderete l'anno scorso tutti in piedi a cantarlo l'inno, quest'anno la scena non c'è stata, ma tutti comunque hanno applaudito Muti. Muti che, come scrive questa mattina il Messaggero, una relazione sempre più intima con il suo Verdi, è molto verdiana e anche la polemica che ha suscitato riguarda la scelta di mantenere la residenza fiscale in Italia, scelta che per artisti del calibro di Riccardo Muti è tutt'altro che scontata, e il maestro l'ha rivendicata proprio al microfono di Radio 24. L'abbiamo intrasentita poco fa, ora ve la facciamo davvero sentire nell'intervista di Armando Torno. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Io non sopporto quelli che hanno poi dopo la residenza fuori d'Italia e poi dopo nel nostro paese fanno i censori e quindi alzano la voce contro i ministri, contro chi ci governa, ma non mi riferisco solamente a pochi giorni fa, mi riferisco a 10, 20, 30 anni fa. Quindi non si può avere la residenza fuori e poi dopo sputare nel proprio paese. Così dunque il Macbeth, così Riccardo Muti all'apertura ieri sera della stagione lirica di Roma. Anche questo sulle prime pagine dei giornali sentivate, e tra poco anche le altre notizie, sempre con prima edizione. Prima edizione. Ancora buona giornata da Anna Miglioratti, siamo pronti con le prime pagine dei quotidiani, con le notizie di oggi. Aperture già vi preannuncio pressoché uguali per tutti i quotidiani, più o meno, perché a tenere banco è la tensione tra Roma e Parigi dopo la nota dell'Eliseo che pungolava l'Italia. E allora, Corriere della Sera, la Francia preme sull'Italia mantenere gli impegni, patto tra Parigi, Roma e Berlino. Sarkozy incalza l'Italia, l'apertura del Messaggero, faccia quel che deve ma c'è un patto con Roma e Berlino. Poi Sarkozy, Monti rispetti gli impegni, La Repubblica, pressing su Roma. La Stampa, patto a tre per l'Europa, Parigi avverte Roma, pieno sostegno ma fate presto con le riforme. Insomma, apertura come dicevamo pressoché unanime, e questo sicuramente il tema che domina e che domina anche i commenti di oggi. L'altra notizia politica di giornata, della giornata di ieri, c'è su tutti i quotidiani, ma la maggiore evidenza la trova su La Repubblica, ed è l'ex premier Silvio Berlusconi che ieri è tornato a parlare a Verona. Berlusconi in campo, pronti per il voto ma la Lega l'abbandona. Bossi con me, Calderoli lo gela, alleanza finita, la maggioranza in incognito, il commento della Repubblica. Ma questo è un altro fronte, anche alla luce, ve l'abbiamo raccontato in GR24, della nota invece di Moody's di questa mattina, che torna a puntare l'attenzione sulla crisi e su, come scrive La Stampa, appunto questo patto a tre per l'Europa. Le altre notizie di oggi che trovano evidenza sulle prime pagine dei quotidiani, restiamo sul quotidiano torinese, che a centro pagina ha un'immagine che ci annuncia che da oggi a Durban si apre la 17ª conferenza ONU sul clima, ma anche qui è la crisi economica a dettare l'agenda, il mondo riprova a far pace con la terra, il titolo della Stampa. Altra notizia in grande evidenza sul quotidiano torinese, il giorno del voto, l'Egitto alle urne per il dopo Mubarak. La Repubblica a centro pagina ha un'altra immagine che arriva invece dalla Germania, ma questa volta non riguarda la crisi, bensì una questione che sta molto a cuore ai tedeschi, la battaglia sul treno nucleare, centinaia di feriti, 1300 arresti. Che succede? Che in Germania ci sono stati 2 giorni di guerriglia tra dimostranti e polizia per la questione del nucleare. Anche qui sulla Repubblica la lunga marcia dei ragazzi di Piazza Tahrir ci ricorda che oggi si vota in Egitto con GR24, più avanti andremo anche al Cairo con l'inviato del Sole 24 Ore. E poi sempre sulla Repubblica invece la polemica riguarda un tema che sa di crisi ed è tutto di casa nostra: il lavoro non c'è più, immigrati a rischio stop. Che succede? Che quest'anno con i flussi entreranno in Italia 98.080 extracomunitari, ma potrebbe essere l'ultima volta, scrive la Repubblica. È probabile che dal 2012 non entreranno più, almeno non attraverso il decreto flussi. La ragione è l'inversione di tendenza negli anni di crisi sfibrante, che oltre ad aver contratto il mercato del lavoro italiano hanno messo in difficoltà il bacino di immigrati e dunque potrebbero non entrarne più, non servirne più. Il Messaggero, centro pagina, già ve l'abbiamo raccontato poco fa, la prima ieri sera all'Opera di Roma con i grandi applausi per il Macbeth di Muti, ma anche qui si parla di immigrazione, in questo caso dei migranti arrivati e della tragedia di Brindisi. L'intervento dei vescovi dopo la tragedia di Brindisi, anche qui dicono rivedere le quote. Dopo la tragedia in mare parla Monsignor Giancarlo Pergo, direttore della Fondazione Migranti della CEI, e chiede di rivedere le quote degli ingressi stranieri in Italia per dare quote maggiori ad alcuni paesi che vivono in situazione di instabilità. Dunque un appello che va in senso esattamente contrario a quanto invece preannuncia la Repubblica. Il Corriere della Sera, centro pagina dedicata invece alla questione del San Raffaele di Milano, favori dai servizi e sabotaggio del vicino, i segreti di Don Verzé, così scrive oggi il Sole 24 Ore, che però apre anche lo squarcio su un'altra polemica tutta milanese: Milano e l'assessore ribelle. Ci sono già grane per il sindaco Pisapia a Milano, uno riguarda la polemica sullo smog e ne parleremo più avanti anche in prima edizione, l'altra sono le tensioni con l'assessore Boeri. L'ultima notte tra Boeri e Pisapia, scrive il Corriere della Sera, il rapporto di fiducia si è incrinato in modo definitivo, almeno stando al Corriere della Sera. Corriere della Sera, dalla quale vi segnalo un'ultima notizia, un'analisi dello studioso di lingua italiana De Mauro, il quale sostiene che 7 su 10 ormai faticano a comprendere un testo, non capiamo più la nostra lingua, la salute della lingua italiana è allarmante. Secondo il linguista, solo il 20% possiede le competenze minime per quanto riguarda la lingua italiana, così almeno stando all'analisi del Corriere della Sera. Ampia carrellata questa mattina dalle prime pagine dei quotidiani, ora voltiamo pagina e parliamo invece di traffico e di centri storici, un tema molto d'attualità, come già vi ho anticipato. Più avanti sentiremo anche che succede oggi a Milano dopo la polemica per il blocco del traffico, che non ci sarà ma potrebbe invece arrivare nei prossimi giorni, ma qualcosa accade anche a Padova. Questa mattina infatti, e noi ve lo raccontiamo un po' in anteprima, a Padova verrà presentata un'iniziativa per facilitare con furgoncini a pedali le consegne nel centro storico. Una proposta per chi fa shopping e per chi lavora, che ha già avuto successo in Europa e che potrebbe essere estesa anche in altre città italiane. Allora sentiamo di cosa si tratta in questa intervista di Dario Ceccarelli. Non è un momento facile, eppure, crisi o non crisi, c'è un'Italia che va, anzi che va a pedale, come ci spiega Hermes Rossi, imprenditore padovano che ha avuto un'idea, che si chiama Triclo, per ridurre la pressione del traffico. Dottor Ross, che cos'è questo Triclo? Triclo rappresenta un nuovo progetto per effettuare consegne personalizzate just in time nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nel pieno rispetto dell'ambiente. Infatti il metodo utilizzato è un furgoncino a pedali, potremmo dire, un triciclo a pedalata assistita. Io ad esempio decido di prendere un paio di scarpe in un negozio del centro, ecco, lo posso fare da casa? Semplicemente chiamando un numero telefonico, il Triclo può intervenire per prelevare la spesa, se voluminosa o pesante, presso il negozio dove lei ha fatto acquisti e consegnargliela a casa se abita nel centro, oppure al parcheggio più vicino dove ha lasciato la sua macchina. Padova è nata per caso? L'idea era di partire da Padova per fare un test, ma credo che se, come noi speriamo e crediamo, il test dovesse essere positivo, l'idea è quella poi di ampliare questa proposta in città più importanti quali Milano, piuttosto che Firenze, piuttosto che altre città in Italia. Nel centro storico di queste città? Naturalmente nel centro storico, il mezzo si presta soprattutto per le consegne nelle zone a traffico limitato, ma anche in zone dove il traffico non è limitato, laddove ci sono stradine strette e dove è impossibile fermarsi, ad esempio con dei furgoni per caricare o scaricare o delle auto per caricare o scaricare. Furgoncini a pedali, ma una bella fatica. Sì, si fa un po' di sport anche utilizzando questo tipo di mezzo, ma è un mezzo a pedalata assistita, per cui non è così faticoso come può sembrare. E chi lo guiderà? Lo guideranno dei ragazzi, spero, che abbiano voglia di pedalare innanzitutto. È proprio il caso di dire, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Senta, lei non è nuovo del mestiere, negli anni 70 mi sembra importò da Londra a Milano l'idea dei Pony Express. Qual è la differenza rispetto allora? Il fenomeno Pony Express si proponeva come strumento per essere più veloci nel traffico cittadino. Lo slogan era allora: gli uomini arancioni sono più forti del traffico. Ora Triclò vorrebbe dare un contributo per eliminare il traffico cittadino, per facilitare in questo caso le consegne di pacchi, non tanto di documenti, ma di pacchi e merci nei centri storici e nelle zone a traffico limitato. Prima edizione. 6:35 minuti, ci aspetta Italia in controluce. Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchessi, oggi è il 28 novembre e Italia in controluce va in onda, la prima edizione. Il Partito Democratico appoggia fin da subito l'attuale governo a guida Mario Monti e passa dunque in pochi giorni dall'opposizione neanche troppo efficace alla maggioranza. Stando a tutti i sondaggi però, il Partito Democratico in caso di elezioni sarebbe il primo partito in Italia e supererebbe di almeno 5-6 punti il Popolo delle Libertà, ormai in crisi dopo la fine della leadership di Silvio Berlusconi. E allora dove va il Partito Democratico? Il reportage di Cristina Carpinelli. Sono circa 700.000 gli iscritti al Partito Democratico. A questi vanno però sommati tutti quelli che hanno espresso la loro simpatia attraverso il voto. Quella gente cosa chiede oggi al partito di Bersani? E quanto conterà nella scena politica la mancanza di un avversario come Berlusconi? Anche il PD ora dovrà partire da qui. Ma come? E su cosa puntare? Secondo Giuseppe Civati, del Partito Democratico Lombardo, si dovrà partire da una nuova idea di politica. Ma intanto direi che non è una mancanza quella di cui stiamo parlando, perché Berlusconi è ancora un attore protagonista. Certo è che sarà soprattutto il governo Monti a cambiare la prospettiva per il PD, a pretendere che il PD sia in qualche modo sempre più concreto, sempre più chiaro, sempre più coraggioso, questa è la mia opinione. Coraggioso in che termini? Ma la base del partito chiede soprattutto che il Partito Democratico sia chiaro nella presa di posizione sui temi economici prima di tutto, e sicuramente il governo Monti sarà un banco di prova straordinario sia nei termini della responsabilità che però dell'equanimità degli interventi, cioè della possibilità che a pagare ad esempio non siano sempre gli stessi. Su questo l'iniziativa politica del PD dovrà essere molto forte e molto riconoscibile, altrimenti il rischio è quello di fare perdere di vista il senso politico delle cose e lasciare in mano soltanto a un governo che non ha la legittimità popolare di fatto direttamente le scelte sul futuro. Il partito dunque, come ci racconta chi sta dentro, deve dimostrarsi più coraggioso e prepararsi al dopo Monti, con la presentazione di una classe politica nuova. Questo quanto emerge sentendo base e amministratori locali del partito di Bersani. La conferma ci arriva anche da Civati. Io penso che ci sia bisogno di una nuova generazione di politici che in questi anni sono cresciuti e che nel che mentre Monti farà il Presidente del Consiglio potranno crescere ulteriormente, arrivare alla ribalta nazionale e forse rappresentare un paese che vuole cambiare davvero. Quindi lei dice di presentarsi anche con un leader che rappresenti questa fascia? Ma io penso proprio di sì, penso che sia l'esigenza di tutti quello di trovare un leader finalmente rappresentativo. Mi pare che i tempi si allunghino e che sia un tema per lo stesso segretario Bersani quello di riflettere sui destini del PD e anche della candidatura premier. Insomma, sono tutti temi che sono sul tappeto. Sembrava che si andasse a votare immediatamente e il nostro candidato sarebbe stato Bersani. Evidentemente questa parentesi, che non si sa quanto sarà lunga, cambia il punto di vista e forse può portare anche a riflessioni sulla stessa figura del candidato premier. Italia in controluce, torniamo oggi 13.30 su Radio 24. Grazie Daniele Biacchessi, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. E alle 6.39 minuti noi andiamo invece ora a Gela, dove saluto il sindaco Angelo Fasulo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sindaco, lei c'era nel 1959? No, sicuramente no. La battuta, ovviamente, nemmeno io c'ero nel 1959. Fatto sta che in quell'anno si cominciò a progettare il carcere di Gela, si cominciò a costruire nel 1982, allora forse c'eravamo entrambi, questa storia iniziata più di 50 anni fa dovrebbe arrivare a completamento solo oggi, perché dopo 50 anni pare questa mattina il carcere di Gela sarà inaugurato, giusto? Sì, ormai è una certezza, tra qualche ora ci sarà l'inaugurazione, non solo l'inaugurazione ma la vera apertura. Dico questo perché non c'ero nel 59, ma negli ultimi anni ho avuto modo di sentire di due o tre o quattro inaugurazioni fatte anche con la presenza del ministro dell'epoca, con grande solennità, ma di fatto non c'erano gli arredi, non c'erano i detenuti, non c'era nient'altro che una vigilanza da parte della polizia penitenziaria sulla struttura, quindi sostanzialmente un vero scandalo, una cosa inaccettabile. Oggi parliamo invece di apertura della struttura, arrivano gli agenti e arriveranno nei prossimi giorni i detenuti, quindi un carcere che funziona da carcere, un pezzo dello Stato che funziona. Per anni ci sono state, come raccontava lei, le guardie carcerarie a vigilare sui muri e null'altro. Sì, dopo è stato vandalizzato un paio di volte, si è pensato di controllare il carcere, non i detenuti, e questo effettivamente era un po' troppo per uno Stato moderno. Quando arriveranno i detenuti? Sì, già da oggi ci sono la polizia penitenziaria che prende servizio, da domani o nei prossimi giorni diciamo, arriveranno i detenuti per occupare almeno il 50% della struttura, poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi arriveranno anche gli altri, ma ripeto, l'importante è aprire, l'importante è mettere fine a questa strada. Per non dire, per non ripetere scandalo. 96 posti, 48 celle, sarà peraltro anche un carcere super moderno e per detenzioni brevi. Sì, non è un carcere di massima sicurezza, è un carcere di medie dimensioni o medio piccole, però che sarà importante per un territorio, sarà importante per come struttura penitenziaria, perché darà risposte e dimostrerà efficienza. Ecco, oltre che appunto per mettere fine a anni di discussione, quello che lei ha definito giustamente uno scandalo, la spesa per un carcere che di fatto non era aperta, che importanza avrà per Gela il presidio sul territorio? Ma credo intanto sarà, dicevo prima, un pezzo di Stato, sarà la dimostrazione che c'è la giusta attenzione ed efficienza dello Stato e soprattutto sarà, diciamo, la dimostrazione che questo territorio riesce anche a vincere le battaglie quando vengono seriamente portate avanti. E poi è inutile negarlo, sarà per noi anche una piccola industria, nel senso che ovviamente ci sarà una ricaduta economica e questo non dispiace assolutamente, ma la cosa importante è un pezzo di Stato che funzioni, non un'inefficienza, un pezzo, diciamo, di una struttura pubblica abbandonata a se stessa. Seppure dopo 50 anni appare che allora questa mattina ci siamo. Grazie al sindaco di Gela per essere stato con noi. Speriamo di risentirci per fatti positivi come questo. Buona giornata. Buona giornata, speriamo davvero di darvene ancora di buone notizie. Nel frattempo però voltiamo pagina. E con un balzo dalla Sicilia andiamo invece a Milano. Niente blocco del traffico, diciamolo subito, oggi nel capoluogo lombardo, ma questione tutt'altro che chiusa, quella dello smog, e soprattutto il braccio di ferro in sostanza ormai tra il comune di Milano di Giuliano Pisapia, che lo saprete dopo aver scritto una lettera aperta per chiedere azioni comuni per ridurre lo smog, ha annunciato per oggi il blocco su tutto il territorio comunale anche per i diesel Euro 3, provvedimento mai adottato in Italia nei giorni feriali, ha fatto invece un passo indietro. Dall'altra parte la provincia, che vorrebbe invece affrontare la questione a livello di macro area coinvolgendo anche i comuni vicini. Una cosa comunque è certa ed è che a Milano lo smog è a livelli altissimi. Oggi ci sarà un vertice in provincia per decidere che fare. Allora io saluto e ringrazio per essere con noi a quest'ora il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo detto, oggi a Milano si circola, lei è intervenuto per frenare le decisioni di Milano. Oggi ci sarà invece questo vertice. L'obiettivo qual è? Ma per la verità non per frenare decisioni, ma per chiedere che le decisioni vengano prese insieme da tutti i rappresentanti dei 134 comuni che compongono la provincia di Milano, e questo è qualcosa che da tanto tempo noi continuiamo a dire: non può essere uno che decide per tutti, anche perché Milano rappresenta 1.300.000 abitanti, ma i comuni di cintura che proprio vivono in piena osmosi rispetto al capoluogo rappresentano quasi 2 milioni di abitanti, quindi è evidente che qualunque siano le decisioni che si vadano a prendere, nel momento in cui sono presi dai rappresentanti di tutti i comuni hanno un effetto completamente diverso. Quello che è evidente, ma tutti gli esperti lo dicono, è che fare interventi su un'area molto ridotta, quale ad esempio la chiusura del centro, ma anche la chiusura della stessa città, sono diciamo manovre con un effetto ridottissimo. Anche perché dare un confine all'aria diventa davvero difficile. È impossibile, francamente è impossibile. Prima edizione. Presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, ha sentito tra l'altro dal traffico, sta già arrivando come ogni mattina gli automobilisti su Milano, perché non ci sono solo i milanesi. Oggi ci sarà questo vertice in provincia, dicevamo prima. Riuscirete a trovare un accordo? Se ne discute da tempo, quando comune e provincia di Milano erano dello stesso colore politico. Ora non siete della stessa idea, però ci provate ora a trovare un accordo? Ma guardi, è un metodo di lavoro che da sempre io propongo, ma che poi è la base di quella che è la futura costruzione della città metropolitana. Su questo il sindaco Pisapia si è dichiarato d'accordo sul fatto di un metodo che deve essere un metodo che coinvolga tutti coloro che hanno responsabilità amministrative all'interno della provincia. Se poi però nei fatti le decisioni vengono prese unilateralmente, allora questo viene a cadere. Ecco perché sabato ci siamo visti insieme agli assessori Maranna e Stanciari, che sono gli assessori all'ambiente, e ci siamo detti che rinviare di un giorno, ma cercare di avere il consenso di tutti i sindaci, o perlomeno dei tanti che mi auguro possano discutere e individuare delle soluzioni accettabili per la stragrande parte, credo che abbiamo pensato che fosse veramente che fosse meglio. Giusta, sì. Cosa potrebbe uscire dal tavolo di oggi? Perché l'ipotesi è più quella di targhe alterne che blocco totale, come pensava Milano? No, guardi, questo è ciò che è stato preso dai media ed è circolato, ma non si parla di una soluzione piuttosto che di un'altra, si mettono sul tavolo le diverse soluzioni. Innanzitutto mi lasci dire che abbiamo invitato anche l'assessore regionale, perché poi le responsabilità ma anche le prerogative, certo, che è il terzo attore in qualche modo, la regione e i sindaci. La provincia ha un compito di coordinamento, ma noi non abbiamo la possibilità di chiudere delle strade, tanto per intenderci, o di fermare dei... Ma potrebbero nei prossimi giorni chiudersi strade e fermare mezzi a Milano? Ma io credo che si debba considerare che ormai da quasi 15 giorni abbiamo il superamento della soglia prevista, ma non un superamento, cioè i 50 mg a metro cubo per le polveri sottili PM10, non un superamento di dire guardano 6 a 50, 6 a 52, 6 a 55, no, più del doppio. Quindi, insomma, qualcosa bisogna fare. Ecco, la situazione non è una situazione facile, non è una situazione che si possa accettare così, e le previsioni del tempo ci dicono che purtroppo ancora per giorni questo sarà. Siccome l'intera pianura padana veramente da questo punto di vista è molto sfortunata, perché vento, sappiamo, le polveri si depositano e non c'è nulla da fare, e purtroppo qualcosa dobbiamo decidere. Ecco, e il sollevamento delle polveri esistenti, attenzione, non è soltanto o non è tanto ciò che viene immesso nell'atmosfera dai tubi di scappamento, ma sono le polveri che sono a terra, che con il rotolamento delle ruote vengono risollevate, e questo ormai si considera la, diciamo, l'incidenza maggiore. L'emergenza prima. Sicuramente. Allora, diamo l'appuntamento oggi, il tavolo in provincia Milano, e vedremo di capire che succederà per i molti che circolano in auto a Milano nei prossimi giorni. Grazie nel frattempo, poco spazio, ma speriamo di avervi chiarito qual è il problema. Grazie al presidente della provincia di Milano, Guido Podestà. Buona giornata. E noi però ci fermiamo qui solo con prima edizione, perché tra pochissimo ci risentiamo con le notizie di GR24. Grazie a Viola Bottoni, grazie a Peter Bescapè. Ancora buon lunedì da Anna Migliorati.